Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Dalla IEA, l'International Energy Agency, fino all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, tutti sostengono che l'efficienza energetica è di gran lunga l'approccio più economico per ridurre i consumi di combustibili fossili. Produrre un kilowattora in più di energia, anche da fonti tradizionali ed economiche come il carbone, costa il doppio che risparmiare un kilowattora di energia. Eppure stiamo percorrendo soprattutto la strada delle rinnovabili, che certamente è importantissima, ma che risponde alla logica del produrre di più e non certo a quella del consumare di meno. C'è addirittura chi sostiene che consumare meno energia significhi automaticamente diventare più poveri. Chissà, allora mi domando se si sente più ricca o più povera l'amministrazione comunale di Monza, che ha sostituito con un sistema molto innovativo basato su LED e fibre ottiche, pensate un po', l'illuminazione cimiteriale. Ha visto così calare i costi di gestione ed energetici, appunto, dell'illuminazione cimiteriale da 160.000 euro l'anno a 700 euro l'anno, insomma un risparmio del 99,5%. La mia opinione è che l'amministrazione di Monza e quindi tutti i cittadini siano più ricchi in questo modo, e presumo che anche il nostro ospite di oggi sia d'accordo con me. Glielo chiediamo subito, ma prima ve lo presento. È Dario Di Santo, direttore di FIRE, la Federazione Italiana per gli Usi Razionali dell'Energia, che è stato nostro ospite tante volte. Buonasera Dario, benvenuto. Buonasera Maurizio Melis, buonasera a tutti. Allora, tu cosa ne pensi? Sono più ricchi o più poveri? Beh, io direi che se io risparmio automaticamente ho più risorse che posso decidere di investire dove voglio. Ma perché secondo te c'è questa idea strana che consumare meno energia vuol dire essere più poveri? Perché forse atavicamente uno collega a questo discorso consumo di meno perché magari l'energia ce n'è poca o costa troppo, vedi crisi del petrolio anni 70, e di conseguenza collega questo fatto alle domeniche a piedi, ai contingentamenti, e quindi la vede come una situazione di povertà. Ma ovviamente ora non stiamo parlando di questo. Allora, involontariamente mi hai lanciato il servizio, una scheda che sentiamo, poi la commentiamo. Il 1973 è l'anno della prima crisi petrolifera. Arthur Rosenfeld era allora uno dei più stimati fisici delle particelle, quando scelse di dedicarsi alle problematiche energetiche fondando il Center for Building Science. Studiando il rapporto tra produzione di ricchezza e consumo di energia, scoprì che il mercato ha una tendenza naturale a divenire ogni anno più efficiente, mediamente dell'1%. Ciò nonostante, considerando la crescita della popolazione mondiale, con questo trend i consumi energetici nel 2100 sarebbero il triplo degli attuali, pur conservando le attuali inaccettabili disparità tra mondo ricco e povero. Ma basta portare al 2% questo tasso di efficientamento, in alcuni momenti storici si è arrivati anche al 4%, per ribaltare lo scenario. In tal caso, infatti, nel 2100 10 miliardi di persone potrebbero permettersi uno stile di vita europeo, consumando metà dell'energia che consumiamo oggi nel mondo. Sono in molti a pensare che un tale obiettivo sarebbe raggiungibile senza grandi sforzi. Dunque Dario, questo scenario è estremamente affascinante. Naturalmente ci si deve porre una domanda: ma è veramente possibile fare così tanta efficienza energetica? Parlando di edifici, noi sappiamo che effettivamente possiamo costruire edifici che consumano un quinto, anche un decimo dell'energia degli edifici tradizionali e costano alcuni punti percentuali in più, 5, 10. E nel comparto industriale invece è tutto molto più complicato. Si può immaginare, insomma, di stimare quale sia il potenziale di risparmio in questo settore? Ma si possono fare delle stime. Consideriamo che le aziende che hanno fatto un minimo di interventi di efficienza energetica negli ultimi 20 anni hanno dimostrato che si può tranquillamente risparmiare mediamente un 5%, e consideriamo anche, qui parliamo di risparmio globale, se ci riferiamo a singoli interventi, singoli processi, singoli consumi dell'edificio, normalmente passiamo a ben altre percentuali, dentro 20, 30, 40%, però su un'ottica continuativa 5% era un valore, diciamo così, minimale. Soprattutto perché se quello è un trend, le cose cambiano drasticamente, cioè se un'azienda riesce a risparmiare il 3% in più ogni anno, dopo un po' di anni diventa una cifra enorme. Assolutamente sì, poi parliamo anche di un fatto, esperienze svolte in Europa, in Irlanda, in Svezia, in Danimarca, eccetera, dove hanno introdotto i sistemi di gestione dell'energia, dimostrano che laddove l'azienda implementa un sistema di gestione dell'energia non solo riesce a ottenere risparmi decisamente maggiori e che continuano nel corso degli anni, e si rafforzano, ma soprattutto ad esempio nel settore industriale si vede che l'efficienza si integra con i processi, diventa strategica e aiuta a migliorare i processi industriali rendendoli più produttivi e competitivi. Diventa quindi proprio un elemento culturale, e qui forse mi lanci ancora una volta la domanda successiva, perché se noi stiamo a vedere, ci sono un sacco di casi eclatanti, pensiamo ai cellulari per esempio, che sono veramente miracolosi dal punto di vista dell'efficienza energetica. Come dire, insomma, che quando ci si pone il problema, la soluzione si trova. Allora forse vuol dire che noi questo problema dell'efficienza per decenni non ce lo siamo posto. È proprio così. Il problema è che nei prossimi anni è attesa una forte crescita dei prezzi dell'energia. A questo punto abbiamo due strade davanti. O investiamo adesso in efficienza e fra 10-20 anni ci troveremo a poter gestire comunque risorse economiche disponibili per fare altro, oppure ritardiamo e fra 10-20 anni saremo tutti piuttosto poveri. Pensiamo, ci sono paesi ad esempio in Europa come il Regno Unito che sta studiando delle politiche rivolte ai pensionati, perché ad esempio quello è un tipico settore su cui se non si comincia a investire in efficienza adesso, parliamo ovviamente di edifici in questo caso, col potere di acquisto dell'euro che diminuisce, con le pensioni che sappiamo hanno i loro problemi, fra qualche anno rischieranno di essere in grande difficoltà perché la spesa energetica assumerà una rilevanza sempre più importante. E torniamo un po' al tema all'inizio: se riduciamo il fabbisogno, a parità di risorse disponibili ci resta in tasca qualcosa. Esatto. Abbiamo parlato di efficienza nell'industria e di efficienza nel residenziale, proviamo a parlare invece di industria dell'efficienza. Che cosa vuol dire questo per l'Italia, o che cosa potrebbe voler dire? Vuol dire che è una grande opportunità, anche perché l'efficienza è fatta di tante piccole apparecchiature e soluzioni differenti che si prestano molto bene ad essere realizzate nell'ambito delle PMI. L'Italia tra l'altro ha una grande tradizione di aziende che lavorano in questo ambito, e chiaramente questo fa sì che fare più efficienza significa anche dare un'opportunità di crescita al nostro settore produttivo, valorizzare le PMI e giocare per il futuro il ruolo di un paese forte e che può ancora competere a livello mondiale su un settore, quello dell'energia, che sarà fondamentale per gli sviluppi futuri. Grazie Dario Di Santo. Grazie a te. Bene, si chiude qui la settimana dedicata all'Italia senza nucleare, ma Mr. Kilowatt continua. Appuntamento a lunedì. Buona serata.